Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio, speciale estate. E allora, ritorniamo a parlare di risparmio, cominciando da questo presupposto. Sarebbe sicuramente una bella sorpresa se il vostro datore di lavoro, prima di salutarvi per le vacanze e per le ferie, vi comunicasse un aumento di stipendio di 333 euro al mese. Sicuramente una circostanza impossibile, staranno pensando in molti, e è certo che questo aumento forse il capo non ce lo darà così facilmente, almeno in un momento economicamente delicato come quello che stiamo vivendo in questa fase. Possiamo però guadagnarci questo denaro, o almeno questo è ciò che sostiene il nostro ospite di oggi, non con delle richieste pressanti all'ufficio del datore di lavoro, ma con qualche accorgimento nelle nostre abitudini, nella nostra condotta quotidiana, con l'attenzione ad alcune spese, ad esempio, che potremmo evitare che ci sfuggono di mano, con qualche buona abitudine o anche con qualche trucco che probabilmente fino ad ora non c'era mai venuto in mente. Oggi parliamo di come fare a risparmiare. Io so bene che è un tema che affrontiamo spesso a Salva Danaio, ma siccome ci sono tanti libri in circolazione anche di stampa recente che ci danno indicazioni utili in questo senso, oggi vi presentiamo un'altra iniziativa editoriale. Si intitola 333 euro in più al mese, il sottotitolo è Tattiche pronte all'uso per risparmiare senza rinunciare. L'autore Andrea Benedet, che saluta qui a Salva Danaio oggi con noi, benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Tra l'altro non è la prima avventura su questi argomenti per Andrea, poi ci racconterà come mai anche si è appassionato al tema del risparmio nelle proprie abitudini. Andrea vive tra Milano e Parigi, laureato in scienze politiche, è proprio un giornalista, un collega specializzato in consumi e nuove tecnologie. Intanto 333 euro in più al mese. Andrea, dimmi subito come ti sei inventato questa cifra. Hai quantificato in qualche maniera come questo risparmio potrebbe arrivare dal cambiamento delle nostre abitudini? Sì, ovviamente 333 è una cifra simbolo, ma 300 e rotti euro corrispondono grosso modo al 10, poco più del 10% del reddito mensile di una famiglia italiana. E quindi limando un po' qua, un po' là, facendo qualche piccolo cambiamento di abitudine, non è difficile recuperare un 10% di quello che spendiamo. Allora, diceva Benjamin Franklin, tu lo racconti nella tua divertente prefazione al libro: se volete essere ricchi, preoccupatevi di risparmiare così come vi preoccupate di guadagnare. La tua prefazione, dicevo prima, appunto, è molto divertente, e tra l'altro mi ha stupito molto la parte in cui tu racconti che ti sei interessato in primo luogo di questi argomenti perché sei un tirchio per natura. Ahimè, sì. E poi per un interesse, diciamo così, professionale indiretto, nel senso che io, lavorando come copywriter principalmente, quindi lavorando nel mondo della comunicazione, del marketing, della pubblicità, insomma mi sono un po' reso conto che dall'altra parte della barricata, magari quando noi andiamo a fare la spesa, siamo al supermercato, c'è un esercito di persuasori, di professionisti del marketing, che insomma ci dichiarano quotidianamente una lotta per farci spendere di più. Allora carpirne un po' i segreti, capire come ragionano, ci può aiutare in qualche modo anche, insomma, a evitare qualche trabocchetto, qualche acquisto d'impulso che magari a fine mese pesa, o meglio toglie peso al nostro portafoglio. Allora, diciamo così, che più che tirchio magari sei un consumatore morigerato, attento, consapevole, prudente, perché tra il tirchio e lo spendaccione magari c'è tutta una serie di, come dire, diciamo che sono frugale, parsimonioso, ecco. E penso che di questi tempi, insomma, non sia necessariamente un difetto, perché sappiamo tutti, insomma, nei tempi in cui ci troviamo in un pianeta sempre più sovraccarico e sempre più deprivato dai nostri consumi, condurre uno stile di vita un po' più sobrio può servire a noi, ma può servire un po' a tutti. Esatto, hai toccato un bel tema, perché è chiaro che adesso che c'è la crisi economica continuiamo a dare indicazioni su come condurre al meglio il proprio stile di vita, proprio per risparmiare e far arrivare questi redditi che non arrivano più da nessuna parte, magari alla fine del mese o quantomeno alla terza settimana, visto che non arriva più neanche lì. Ma in realtà, ecco, un cambiamento di abitudini qualche volta fa respirare forse un po' di più il pianeta. pianeta, le città in cui viviamo, in realtà gli effetti sono molteplici. Un'altra cosa che volevo ricordare, perché questa me l'ha raccontata anche un altro collega giornalista che abbiamo intervistato per queste puntate estive di Salvadanaio, Antonio Galdo, anche tu sei un felice non possessore di automobile, come vivi? Sì, ed è una condizione che io raccomando a tutti, insomma, poi chiaramente c'è chi la macchina non la usa per necessità e non ne può fare assolutamente a meno, però insomma ricordiamo che noi viviamo nel paese di fatto con il più alto tasso di motorizzazione del mondo e avere dei mezzi pubblici che sono carenti in qualche città non è una buona giustificazione di per sé per abusare della macchina come spesso si fa in Italia. Insomma, noi siamo trasmettendo da Milano, chi ci ascolta da Milano, ma probabilmente da tutte le città italiane, insomma, ma magari se ci ascoltano dall'automobile vedono come sono congestionate le strade e quante persone, forse tra quelli che magari in doppia fila di fronte al bar per prendersi il caffè, forse avrebbero potuto usare un altro mezzo. Tanto più che le nostre città, insomma, sono, eccettuata forse Roma, ma la stessa Milano, da circonvallazione a circonvallazione misura 8 km, quindi sono città a misura d'uomo, a misura di bicicletta, si possono non girare tranquillamente a piedi. Non stiamo parlando di New York piuttosto che esatto. Di città del Messico. E quindi tante volte, insomma, anche in questo caso un piccolo cambiamento di abitudini certifica che spesso è la pigrizia il nemico numero uno delle nostre finanze. Non sono le distanze i problemi di queste città, ma proprio le congestioni determinate dal grosso traffico, ecco, diciamolo chiaramente. Quindi come ti muovi? Molti mezzi pubblici, bicicletta, mezzi pubblici, che cosa fai? Poi io, insomma, ho uno scooter che all'occorrenza, insomma, mi può servire. E comunque io, per esempio, adesso sono venuto, ho percorso 2 chilometri a piedi, ci ho messo un quarto d'ora perché abito a un paio di chilometri da qui e devo dire, se avessi preso la macchina, come sarebbe stato forse logico per molti, quindi ci avrei messo lo stesso tempo. Non trovavi parcheggio, non avrei trovato parcheggio, magari mi sarei trovato anche una bella multa perché qua sotto è pieno di strisce variopinte e allora hai fatto anche un po' di movimento, magari hai risparmiato sulla palestra. Vogliamo metterla così, visto che anch'io come sono brava subito a carpire i tuoi consigli. Detto questo, adesso queste sono ovviamente le cose più come dire, anche che frequentemente sentiamo quando ci danno suggerimenti di risparmio, però ci sono tanti altri aspetti da toccare, la spesa alimentare adesso, ma vado subito a leggere un pezzo del tuo libro, perché parliamo delle banconote, che a volte sembra che ci spariscano letteralmente di mano, che spariscano misteriosamente dal nostro portafoglio, si volatilizzano. Facciamo un prelievo bancomat, nel giro di un paio di giorni chissà dove sono finite, abbiamo fatto appena un paio di volte la spesa, abbiamo fatto magari il pieno di benzina e track, è ora di rifare un altro prelievo e non riusciamo a ricordarci come e quanto possiamo aver fatto determinate spese, eppure quei soldi li abbiamo spesi e come, con il fenomeno che Andrea appunto ha definito nel suo libro quello delle spese misteriose. Andiamo a sentire di che cosa si tratta. Hai resistito alle tentazioni, hai fatto salti mortali per risparmiare un pugno di euro sugli scontrini del supermercato. Hai coraggiosamente ignorato le sirene di quella vetrina di abbigliamento. Ti sei reso impopolare con tua figlia, liquidando con un no spietato la sua richiesta della trousse delle Wings. E hai perfino rinunciato a quel magnifico telefonino che, non è che ti servisse proprio, ma a quel prezzo sotto costo chissà quando lo ritroverai. Ma a un certo punto, di solito a fine mese, qualche giorno prima dello stipendio, ti accorgi che un paio di banconote da 100 mancano all'appello. Sparite, neanche fossero il bottino di un ladro prestigiatore riuscito chissà come a mettere le mani nel tuo portafoglio. Nella lingua degli economisti, il sortileggio ha il nome di mystery spending, ossia spendere i soldi in maniera misteriosa. E che soldi? Secondo un'indagine svolta un paio di anni fa dall'Istituto Astra, sono 145 al mese, 1800 l'anno, gli euro che lasciano i portafogli italiani senza che i legittimi proprietari capiscano come sia accaduto. A ben guardare, la soluzione del mistero è banale. Il denaro sparito è stato polverizzato in decine o centinaia di microspese quotidiane, acquisti per lo più di importo minimo ai quali non facciamo troppo caso, come il caffè al bar, la monetina nel parchimetro, il bicchierino con gli amici. Proprio nel tempo libero e nelle uscite in compagnia, si nasconde uno dei più insidiosi vortici succhiasoldi. Anche se i buchi neri per eccellenza, certifica l'indagine, sono i mini capricci dei bambini, merendine, figurine, gadget e così via, e soprattutto i piccoli acquisti di impulso da supermercato, quegli extra da pochi centesimi che finiscono nel carrello quotidiano senza che nessuno li abbia inclusi nella lista della spesa. Parliamo ad esempio di caramelle, dolciumi, gratte e vinci, giornalini. Esattamente quei prodotti che, facci caso, sono esposti nei pressi delle casse, così da esprimere tutto il loro potenziale tentatore mentre ci giriamo i pollici in attesa del nostro turno per pagare. Andrea e Benedetta, ti dico qual è il mio mistero della sparizione, non di banconete ma di monete. Io non faccio altro che riempire la chiavetta della macchinetta del caffè qui al Sole 24 Ore, per cui anche lì è un'altra abitudine che dovrei in qualche maniera tenere sotto controllo. Però se mi togli pure il piacere di andarmi a prendere il caffè ogni tanto, come dice la pubblicità, è un piacere. Però insomma, pensiamo per esempio adesso al caffè in cialde che va tanto di moda questi ultimi anni. Non pensiamo tante volte che un caffè in cialda costa più come unità di un caffè fatto vecchio sistema con la moca, e sommandosi queste spese nel giro di un anno possono superare i 150 euro senza considerare poi l'acquisto della macchina. Se invece il caffè lo facciamo con la moca, gli euro sono 25. Quindi mi vuoi dire che tu vai in giro con il thermos tutto il giorno? Potrebbe essere una bella idea. Non ci hai pensato, te lo suggerisco per la prossima versione aggiornata ecco, magari del libro. Quando si fa una pausa, una sosta al bar per bersi la tazzina, se ne può approfittare per leggersi il giornale, così si risparmia il costo del giornale. Adesso c'era però una considerazione piuttosto importante in questo capitolo del libro di cui abbiamo letto uno straccio, cioè il tema anche dell'utilizzo molto massiccio da parte delle famiglie italiane di denaro contante, e coloro che ti hanno aiutato appunto nell'indagine sul mystery spending, come è stato definito appunto, lo avete sentito nella scheda, indicano come antidoto dalla sparizione del denaro l'uso massiccio di carte di pagamento in luogo del contante. Questo suggerimento è dato dalla Visa, quindi il grande circuito appunto di carte di credito. Però effettivamente io, quando mi occupo di questo tema a Salvadanaio nel corso dell'anno, Andrea, ti dico invece che le famiglie sostengono che utilizzando molto la carta di pagamento è lì che hanno il timore di perdere il controllo dell'utilizzo del denaro. Per cui dove sta secondo te la verità? Sì, questo è secondo me un vecchio pregiudizio che c'è un po' in Italia, che è un po' collegato alla fatica con cui il denaro elettronico si sta affermando. Io penso che, parlando adesso di piccole spese, oggettivamente è molto difficile pagare un gelato con una carta di credito, con un bancomat. Quindi di per qui sé da noi in Italia, è perché altrove è possibile. Sì, anche qua facile. Poi cominciano esperimenti di micropagamento, insomma, però per adesso è un buon deterrente. Poi, chiaro, come dici tu, il rischio, come dicono gli inglesi, di essere penny wise and pound foolish, cioè di risparmiare sulle monetine, sui centesimi, e invece di sprecare quando si tratta di pagare centinaia di euro. Però insomma, ricordiamo che queste microspese quotidiane, faccio un altro esempio, la bottiglietta d'acqua immensa durante la pausa pranzo, quello è un euro che ogni giorno se ne va, vuol dire 200 euro all'anno. Insomma, se noi ci facciamo un bicchiere dal rubinetto, chiediamo una caraffa, oppure approfittiamo della brocca, dell'ampolla che c'è di solito negli uffici, risparmiamo 200 euro senza nessun sacrificio. Altra causa di mystery spending, i cibi spazzatura, che sempre più frequentemente arricchiscono il carrello del supermercato. Sì, queste li chiamano le calorie vuote, no? Io mi diverto ogni tanto quando sono al supermercato a spiare la spesa di chi mi precede alla cassa, e tante volte vedo che anche nei carrelli più parsimoniosi c'è una buona dose di questi cibi spazzatura, aranciate, bibite gassate, merendine. Ricordiamo che ogni passaggio, ogni elaborazione che subisce il cibo, questo a prescindere dalle considerazioni dietetiche, ha un costo. Pensiamo alla comodissima insalatina confezionata, già lavata e asciugata, che si trova al supermercato. Bene, se ci prendiamo la briga ogni giorno di prendere invece un bel cespo di lattuga fresco, a fine anno una singola persona può risparmiare 100-150 euro con un'abitudine così semplice. Tu fai così, vai al mercato per esempio tutti i sabati, oppure preferisci ancora il supermercato e l'insalatina pronta? Il mercato, sì, tu hai detto bene, il sabato è un buon giorno per andare al mercato, perché generalmente le bancarelle, i mercanti sono ansiosi di disfarsi della merce in vista della domenica, e quindi tendono ad abbassare i prezzi. Però un buon punto di riferimento per fare la spesa in modo conveniente sono gli hard discount. Questo lo certifica l'esperienza di chi certifica la spesa, ma lo certificano anche le associazioni di consumatori, che hanno stabilito che facendo regolarmente la spesa al discount si può risparmiare anche il 40% sullo scontrino. E gli hard discount non sono più quelli di una decina, di una quindicina di anni fa, sono sempre più cosiddetti soft discount, cioè esercizi che offrono una vasta scelta di prodotti, anche di prodotti di marca o comunque prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, che a fronte di prezzi molto contenuti offrono comunque un livello di qualità quantomeno discreto. Un'altra buona abitudine, visto che ormai ci siamo addentrati nel terreno del carrello della spesa, è quello di entrare al supermercato magari con la lista della spesa da fare e non avventurarci con il carrello tra un bancone ed un altro, perché poi lì le tentazioni ci piovono addosso. Almeno questo è un tuo suggerimento. Sì, questa è un'abitudine forse un po' retro, però vi garantisco che funziona se ci si prende la briga di compilare una lista, anche perché in questo modo non solo ci si ripara dalle tentazioni, ma si compra effettivamente tutto quello di cui si ha bisogno, il che significa risparmiarsi ulteriori visite al supermercato, no? Magari mi sono dimenticato le uova, mi sono dimenticato il latte, scendo al supermercato e con l'occasione metto nel cestino qualche altro bene, qualche altro prodotto che mi ha tentato strada facendo. Ricordiamo che i percorsi dei supermercati sono organizzati in modo da massimizzare per l'esercizio commerciale l'occasione di tentarci con i prodotti, le offerte che sono disseminati lungo la strada. Se voi notate, per esempio, le uova, il latte e il pane si trovano generalmente molto distanti dall'entrata. Questo perché i beni di prima necessità, quelli su cui il supermercato ha un margine minore, vengono posti lontano nella speranza che noi strada facendo ci imbattiamo in qualche altro prodotto che ci stuzzica. Qual è, Andrea, hai indagato anche su quelli che sono i prodotti che di più si comprano d'impulso? Ma i prodotti d'impulso, allora, bisogna stare molto attenti quando si fa la coda alla cassa, perché lì vengono letteralmente disseminate queste aree di tentazione, di prodotti inutili, soprattutto se ci si fa accompagnare con i bambini. Ecco, un'altra regola sarebbe bene sempre, quando possibile, evitare di fare la spesa con i bambini e anche evitare di fare la spesa quando si è affamati. Questo lo certifica addirittura uno studio un po' curioso che è stato fatto qualche anno fa in Canada e che ha stabilito proprio con matematica certezza che chi fa la spesa con un po' di languorino tende a mettere nel carrello un 10-15% di prodotti in più. A me capita con le patatine fritte, cosa devo fare? Purtroppo vabbè, adesso ho capito che comunque questa è un'altra bella abitudine che devo togliermi e di gran lena. Sono alto per i fianchi che parlano e gridano vendetta. Andrea Benedet ci sta presentando stamattina a Salvadanaio 333 euro in più al mese, tattiche pronte all'uso per risparmiare senza rinunciare. Non ho detto edito da chi, da Dalai Editore. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra pochissimo. Salvadanaio. Siamo ritornati a Salvadanaio speciale estate. Questa mattina ci fa compagnia Andrea Benedet, che ha scritto 333 euro in più al mese, tattiche pronte all'uso per risparmiare senza rinunciare. Tanti consigli per cercare di frenare l'emorragia mensile del nostro portafoglio, tanti suggerimenti di buonsenso, tanti suggerimenti per cambiare anche un pochino il nostro stile di vita e convincerci che qualche volta anche qualche piccolo cambiamento può avvenire senza grandi traumi nell'ambito della nostra famiglia. Andrea, peraltro, so che questo editore ti ha chiamato e ti ha chiesto appunto di scrivere questo libro. Non è una cosa che tu hai fatto esattamente di tua iniziativa, come era successo qualche tempo fa per un'altra versione di un libro appunto di questo tipo, però è un momento in cui effettivamente noi di informazioni su questi argomenti ne abbiamo tantissime. Basta collegarci ad internet, andare sui siti delle associazioni dei consumatori, troviamo in libreria guide di ogni genere. Qual è il valore aggiunto che hai voluto dare al tuo lavoro? Ma io ho cercato intanto un po' di sdrammatizzare questo argomento del risparmio, che pur essendo un argomento serio, insomma, perché per molte famiglie risparmiare è una necessità senza alternative, comunque può essere fatto anche un po' a cuor leggero, un po' anche con un pizzico di divertimento, perché insomma industriarsi per cercare le alternative alle voci di spesa che ci fanno piangere alla fine del mese, ogni mese, può essere anche un'attività insomma in qualche modo gratificante. E poi quando insomma la cinghia non è proprio strettissima, contare su qualche decina di euro in più da mettere via a fine mese, magari senza aver fatto troppa fatica per risparmiarla può essere una piccola soddisfazione e può farci prendere qualche piccola soddisfazione. Ho trovato molto divertente, e non mi sono per niente offesa, invece un po' sì, questo suggerimento: la vita da single non paga, almeno sul piano economico. Se stai pensando di porre fine alla tua beata solitudine, a convincerti ad accelerare potrebbe essere la concreta possibilità di dimezzare molte voci del bilancio domestico, per cui devo affrettarmi a fidanzarmi per in qualche maniera risparmiare appunto mensilmente. Detto questo, sì, può sembrare appunto un po' pittoresco e folcloristico effettivamente questo suggerimento, però la condivisione delle spese aiuta, Andrea. I famosi matrimoni di interesse, insomma, ecco. Questi tempi sono questi. Le badanti non hanno mica... Anche in realtà essere in più di uno, insomma, essere anche quando si va in vacanza, se si riesce a creare un gruppetto di amici, 3, 4, magari anche qualcuno di più, significa poter contare su tariffe ridotte, significa poter prendere un appartamento e dividerne la spesa, significa poter usufruire degli sconti riservati alle comitive. Certo, allora ritornerei per un attimo al tema che abbiamo toccato anche nella prima parte della trasmissione, quello dell'utilizzo dell'auto, l'automobile, lo diceva prima Andrea, sembra proprio essere qualcosa di cui non riusciamo a fare a meno, e il nostro ospite di oggi, come vi ho già detto anche prima, si autodefinisce un estremista della mobilità sostenibile. Sentiamo quali consigli ci dà per risparmiare muovendoci. L'automobile sfreccia con un sibilo, sola in una strada sgombra come mai si è visto. Ha un motore ecologico, spiega la voce della pubblicità, quasi a sottintendere che i suoi gas di scarico hanno il potere di ossigenare l'aria. La carrozzeria, dalle linee fluide, è una presenza che ingentilisce il panorama, e diventare padroni di tanta bellezza è una bazzecola. Sarà tua con una manciata di euro al mese. Che cosa accadrebbe se i 2 milioni di euro spesi ogni anno in Italia in pubblicità di automobili fossero investiti per incoraggiare la gente a muoversi in bici, a piedi o con i mezzi pubblici? Forse si parlerebbe di quelle 7.000 vite sacrificate ogni anno nel nostro paese al dio delle quattro ruote. Balzerebbero magari all'occhio le cifre di Legambiente, che stima in 2 settimane consecutive il pegno di tempo che paghiamo ogni anno per muoverci incolonnati in città, a una media di 25 km l'ora. E magari qualche automobilista avrebbe di che meditare sui calcoli dell'Adusbef, che attribuisce al solo mantenimento di una media vettura un esborso annuale di 4.300 euro per famiglia, un macigno che grava sui più convinti propositi di risparmio. E un tesoretto che, liberato, potrebbe soddisfare 100 capricci, compreso quello di girare in taxi come un ricco. Sì, lo confesso, sono un estremista della mobilità sostenibile. Un pasdaran del pedale, il nemico giurato dei guidatori di SUV. Vivo senza auto, ma so bene che per molte persone questo mezzo è una maledizione necessaria per andare e tornare dal lavoro, guadagnarsi da vivere o muoversi la sera quando i mezzi pubblici latitano e le città diventano insicure. Ma allo stesso tempo, forse perché vivo a Milano, vedo tante, troppe persone per le quali pagare migliaia di euro per chiudersi in un abitacolo a imprecare contro il traffico sembra di gran lunga preferibile allo studiarsi le coincidenze di un percorso in bus o rischiare di trascorrere mezz'ora in piedi su un treno affollato di pendolari. Forse non tutti questi forzati del volante hanno considerato che, come certificano gli studi dell'Unione Europea, 5 spostamenti in auto su 10 sono talmente brevi che sarebbero più rapidi in bicicletta. E resto convinto che nel paese più motorizzato del mondo un rapporto più consapevole con la religione delle quattro ruote potrebbe rendere molti di noi non solo più ricchi, ma anche più felici. Andrea, promesso e permesso che comincerò a limitare l'uso dell'auto, e mi hai convinta con le tue indicazioni di buonsenso, però per tutte le volte che dovrò usarla, io ho la famiglia ad Ancona, nelle Marche, quindi per tutta una serie di questioni personali utilizzo molto l'auto appunto per andare a raggiungerli. Detto questo, mi dai qualche suggerimento per risparmiare sul carburante? Sì, innanzitutto ricordiamo che per risparmiare, insomma, avere questo dato presente, che ogni chilometro percorso in automobile costa dai 30 ai 40 centesimi, calcolando i costi totali suddivisi per chilometro. E insomma, quindi questo ci può aiutare un po' per studiare la convenienza effettiva delle alternative. E poi si può risparmiare, insomma, il caro carburante è all'ordine del giorno, possiamo fare un po' come gli americani che hanno inventato questa parola hypermiling, no? Cioè cercare di fare più chilometri possibili con un pieno di benzina. E qua si può intervenire su diverse voci del consumo dell'automobile. Intanto un po' meno sull'accelerazione. acceleratore potrebbe essere una buona idea. Ma soprattutto usarlo in maniera più progressiva, perché non è tanto la velocità quanto gli strappi che incidono sul consumo. E poi anche le spese accessorie dell'automobile, insomma, pensiamo a tutte le spese di manutenzione, i tagliandi, le parti da sostituire, gli pneumatici per esempio si possono comprare all'ipermercato oppure ancora più conveniente cercarli su internet. Ci sono dei siti che convenzionati con officine sparse un po' su tutto il territorio che vendono gomme a prezzi scontati e li spediscono direttamente all'officina che poi ce ne installerà. Il risparmio in questo caso può arrivare al 40-50%. Voglio saltare di palo in frasca, Andrea, e andare al capitolo 8 del tuo libro, che è il capitolo sulla salute, intitolato Quando il risparmio non ha prezzo. E tu, peraltro, per introdurre l'argomento, ritorni a qualche anno fa, quando avevamo, e noi ne parlammo molto a Salvadanaio, introdotto il tema della liberalizzazione delle farmacie, quindi anche l'introduzione di questi punti vendita all'interno dei centri commerciali dei supermercati, che sono stati ostacolati in maniera molto molto forte dall'industria, e adesso insomma ancora qualche angolo lo abbiamo visto, ma poi grande successo appunto questo settore in termini di liberalizzazione non l'ha avuto. Come affronti l'argomento della salute e del risparmio? Sì, tu hai detto bene, purtroppo c'è questo tessuto, questa stagione un po' ostile a queste timide liberalizzazioni, peraltro che sono state fatte negli anni scorsi, e a pagarne il conto siamo tutti noi cittadini. Questo non solo in realtà in ambito sanitario, pensiamo insomma alla resistenza degli avvocati nei tentativi di limitare le prerogative dell'ordine, che spesso impediscono al cittadino che usufruisce dei servizi legali di risparmiare. Pensiamo anche nella grande distribuzione, che spesso in Italia incontra degli ostacoli semplicemente per aprire dei punti vendita che farebbero bene alla convenienza di tutti, come per esempio anche distributori di benzina. Esatto, meno distributori di benzina, e qua diamo le famose pompe bianche. C'è anche un sito su internet dove si possono localizzare, che tendenzialmente offrono dei prezzi più convenienti, così come le distributori di benzina con il marchio degli ipermercati, che in Italia sono ancora pochissimi. Nello specifico della sanità, io ho parlato di questa voce di spesa che di solito incide pesantemente nei bilanci delle famiglie, che è quello del dentista. Anche in questo caso, ecco, un'abitudine, magari siamo abituati al dentista storico che conosciamo da anni, ok, va bene, però magari proviamo a farci fare un preventivo anche da, per esempio, i negozi di dentista che stanno aprendo negli ultimi anni nelle grandi città, con proprio delle vetrine che si affacciano sulle strade, no? Sono delle catene in franchising che hanno fatto un po' della trasparenza e della convenienza la loro bandiera, e che quindi cercano di farsi largo nel mercato offrendo dei prezzi più competitivi. Vale sempre la pena provare, magari solo per farsi un preventivo. Andiamo in farmacia e dammi, Andrea, la tua personale blacklist degli acquisti per i quali è di solito consigliabile stare alla larga dalle farmacie. Oggi qua ci nimichiamo tutta la categoria, speriamo di no. Non ce ne vogliono. Comunque, ecco, sostanzialmente la farmacia dovrebbe essere luogo deputato esclusivamente a comprare le medicine, e le medicine quelle su prescrizione. Già per i farmaci senza ricetta è più conveniente in genere rivolgersi alle parafarmacie, specialmente quelle che si trovano negli ipermercati. Per tutto il resto, giochi per bambini, prodotti per l'igiene, queste cose qua, di gran lunga è più conveniente rivolgersi all'ipermercato. C'è stata qualche tempo fa un test della Stiftung Warentest, che è una fondazione tedesca che si occupa di testare tutta la merce che viene prodotta e proposta sul mercato, che ha certificato in una prova comparativa di una ventina di creme di bellezza che la crema più efficace era quella che veniva venduta all'hard discount per 2,50 euro, quindi era migliore di prodotti di profumeria o prodotti venduti in farmacia a prezzi che erano 20-30 volte tanto. E quindi ricordiamo questo, che non sempre quest'aura di medicalità, quest'aura di professionalità può essere utile, certo se vogliamo un consiglio, se abbiamo bisogno di saperne di più, ma per tanti altri tipi di acquisti, dallo shampoo, i prodotti per l'igiene eccetera, possiamo rivolgerci a chi ci offre il prezzo migliore. Piace ai consumatori italiani, o almeno si fidano nell'utilizzare i farmaci generici, i farmaci equivalenti, Andrea? Ma ancora no, a quanto sembra, ed è un peccato perché, ricordiamolo, vale sempre la pena, i farmaci equivalenti possono costare dal 15, 20, 25% in meno delle medicine blasonate, offrendo esattamente lo stesso prodotto, quindi perché pagare di più per avere solo una confezione diversa? Ricordiamo che con una semplice ricerca su internet si possono trovare dei motori di ricerca che, dato il nome di una medicina per così dire di marca, indicano l'alternativa generica con tanto di risparmio. Certo, quindi si può andare, guarda, ne do qualcuno giusto perché ho trovato il tuo paragrafo nel tuo libro, generici.com, o anche sul sito dell'Agenzia del Farmaco, si possono trovare queste informazioni utili. Ci mancano ancora, credo, un minutino, no, 30 secondi di tempo, allora forse non riusciamo ad affrontare il tema delle polizze sanitarie, perché questo meriterebbe un approfondimento più sicuramente adeguato. Però, per esempio, anche per fare banalmente gli esami del sangue si può risparmiare qualcosa senza necessariamente sottostare ai ticket che stanno diventando adesso anche quelli più onerosi. C'è stato un recente aumento di 10 euro secchi per molte di questi esami. Sì, Andrea. Certo, questa è anche una buona azione che, insomma, si unisce l'utile al dilettevole, che è quello di donare il sangue, perché quando si diventa donatori si ha diritto a una serie completa di esami del sangue e non si paga nulla. Ecco qua, Andrea Benedet, il libro è 333 euro in più al mese, tattiche pronte all'uso per risparmiare senza rinunciare. Ci fermiamo ancora per i suggerimenti per chi è in viaggio, poi ritorniamo insieme, andremo a scandagliare qualche altro capitolo di questo libro. Salva Danaio. Ed eccoci all'ultima parte di Salvadanaio, un Salvadanaio oggi molto utile, come quelli che speriamo di proporvi sempre. In particolar modo ci siamo soffermati su questi argomenti in queste puntate speciali di questo agosto. Oggi ritorniamo ai suggerimenti che possono essere dati alle famiglie italiane che cercano sempre di più di risparmiare ovunque. Oggi vi stiamo presentando un libro edito da Dalai Editore, di Andrea Benedet, un collega giornalista specializzato soprattutto nel settore dei consumi, delle tecnologie. 333 euro in più al mese, tattiche pronte all'uso per risparmiare senza rinunciare. Abbiamo parlato del carrello della spesa, dell'auto, delle spese legate alla salute. Non abbiamo toccato forse l'aspetto delle bollette, Andrea? Le bollette, ecco, questo è un altro settore in cui le virtù della concorrenza spesso non sono adeguatamente sfruttate. Insomma, quanti di noi hanno provato a chiedere un preventivo a un gestore alternativo, per esempio per il gas o per la luce? Non si diventa ricchi, non si risparmiano, insomma, migliaia di euro, però qualcosina sì, e magari si può ottenere anche un servizio clienti migliore. Anche perché ricordiamo che dal 2007 questo mercato è liberalizzato, è possibile con un po' più di facilità appunto spostarsi da un operatore ad un altro, anche se effettivamente è un mercato che avrebbe bisogno di essere ancora un po' più, certo, trasparente. Allora, alleggeriamo invece la trasmissione, siamo in agosto, siamo qua, molti di noi insomma sono in vacanza, e sentiamo un po' come è stato affrontato il tema della vacanza, per l'appunto, in questo libro. Le vacanze tanto attese, che si rivelano spesso una voce di spesa che non sempre ci possiamo permettere, e allora per andare comunque in vacanza, anzi anche se magari è stato un anno dal punto di vista economico un po' magro, vediamo come possiamo fare per renderle un po' più, dal punto di vista economico, leggere. Negli anni bui della crisi, oltre la metà degli italiani è stata costretta a rinunciare alle vacanze. Gli ultimi dati disponibili, quelli di un'indagine Confesercenti SVG, fanno supporre che il peggio sia passato. Nel 2011 sono aumentati i vacanzieri, più 11%, e anche i giorni di permanenza fuori casa. Le ferie, in altre parole, diventano più lunghe. Quando le ristrettezze mettono in forse le vacanze, prima di gettare la spugna, vale sempre la pena di guardarsi intorno. Le opportunità per concedersi qualche giorno di ferie con un budget di poco superiore a quello che servirebbe per restare a boccheggiare in città non mancano, anche se spesso si tratta di occasioni da connoisseur del risparmio. Insomma, se vuoi risparmiare in vacanza, la regola della stessa spiaggia, stesso mare va messa in discussione. Tutto l'amore che il nostro paese merita, poi, non deve impedire di guardare oltre confine. A volte per eccessivo compiacimento del proprio blasone, a volte per la mancanza di politiche lungimiranti, l'offerta turistica italiana può essere oggettivamente costosa. E non è raro che paesi turisticamente più agguerriti, anche al netto dei costi del viaggio, siano in grado di offrire opzioni più a buon mercato per trascorrere una settimana o due di libertà. In una situazione straordinaria come le ferie, aumenta la propensione a spendere e diminuiscono i freni psicologici allo sperpero. E così, tornati a casa e fatti i conti, si ha la sensazione che la vacanza sia stata un lusso terribilmente costoso. Tante spese extra possono essere evitate tenendo a mente qualche regoletta facile. Eccone alcune. Sfrutta la prima colazione, se compresa nel pernottamento, per approvvigionarti in modo da ridurre al minimo il pasto di mezzogiorno. Se invece la colazione non è compresa, concentra il pasto principale a mezzogiorno, quando i ristoranti offrono menù meno cari. Individua il più vicino supermercato per procurarti pasti al sacco a prezzi contenuti. Specie d'estate, porta con te una bottiglietta d'acqua per non doverti approvvigionare a una bancarella che fa affari d'oro con la sete dei turisti di passaggio. L'informazione è denaro. Dai trasporti ai negozi, passando per i ristoranti e le visite guidate, in tutte le città turistiche ci sono business che fioriscono grazie alla disinformazione o alla pigrizia dei visitatori che si sono fermati alla prima offerta. Una buona guida turistica in tasca potrebbe valerti un piccolo capitale. Andrea, sai cosa ho fatto io un paio di anni fa con una mia amica andando a New York? Siamo partite con una carta prepagata, con un budget infilato dentro. Oltre quello abbiamo deciso, non dobbiamo andare. Mi inchino a questa scelta. E veramente. Ti dirò di più, che ci siamo persino riuscite. Ci siete pure riuscite. Guarda, sì. Infatti, quindi ti suggerisco, non so se l'hai già messo magari, non l'ho questo messo, suggerimento. Ecco. Ti ho sorpresa con effetti speciali. ne terrò sicuramente conto. Ecco, guarda. Detto questo però, ecco, associare il termine vacanza al termine sacrificio, risparmio, effettivamente c'è un po' dura da digerire, però. Sì, certo, perché poi le vacanze, insomma, sono il momento in cui insomma ci si rilassa e i cordoni della borsa, insomma, le spese sembrano meno spese, ecco. E quindi c'è questa atmosfera un po' festosa per cui si è maggiormente propensi a dare via del denaro. Però, insomma, ecco, rilassiamoci, ma non troppo, e poi soprattutto magari lavoriamo di informazione prima di partire. Il 40% degli italiani, ci dicono le ultime rilevazioni, guarda su internet prima di partire, cerca la vacanza oppure semplicemente cerca un'opinione sull'albergo che ha scelto. Possiamo rendere questa abitudine ancora più efficace se per esempio noi clicchiamo sui siti di comparazione, sui metamotori di ricerca delle vacanze. Che cosa sono? Sono siti che scandagliano il web cercando per un determinato albergo o per un determinato pacchetto vacanza il prezzo in assoluto più basso tra tutti i siti internet, le agenzie viaggio online che lo propongono. E quindi in questo caso non solo risparmiamo perché andiamo su internet, ma abbiamo la certezza anche di avere il prezzo migliore della rete. Mm-hmm. Ci sono anche altri modi per risparmiare parecchio, organizzandosi per tempo nella vacanza. Magari c'è chi effettivamente fa delle prenotazioni magari con largo anticipo e riesce sicuramente a spuntare delle tariffe interessanti, correndo però il rischio magari che se salta la vacanza, certo. Salta tutto. Il contrario è invece aspettare fino all'ultimo momento e scegliere il viaggio last minute, però anche lì tu dai delle indicazioni su come riconoscere quello vero, perché anche lì dobbiamo un po' stare attenti. Sì, stiamo attenti perché ci sono queste formulette magiche, no? Che da qualche anno sono in auge, last minute per le vacanze, poi c'è l'outlet per l'abbigliamento, insomma, ecco, non impegnano chi le propone queste formule, perché last minute può dirsi qualsiasi offerta, quindi verifichiamo effettivamente che si tratti di un'offerta all'ultimo minuto. Un'offerta all'ultimo minuto vuol dire che il viaggio parte tra una settimana o due, non tra un mese, perché se già ci propongono un'offerta che parte tra un mese probabilmente c'è da insospettirsi. E soprattutto guardiamo i costi correlati, perché il prezzo pubblicizzato spesso non comprende gli extra più fantasiosi, dal supplemento per l'adeguamento al carburante alle spese di gestione della pratica, che possono fare lievitare di molto il prezzo finale. Lo stesso vale anche per gli aerei low cost, no? Tante volte siamo attratti da un prezzo particolarmente vantaggioso e poi magari ci accorgiamo che per raggiungere l'aeroporto, che è un aeroporto periferico, dobbiamo spendere 15 o 20 euro di autobus, che è l'unico mezzo per arrivarci. E poi, se proprio non ci formalizziamo, addirittura si possono consultare i siti specializzati come istitutireligiosi.org, Monastery Stays, che cosa troviamo? Sì, questi qua, sono Andrea, dei siti che indicano i cosiddetti gli alberghi gestiti da religiosi, insomma le strutture di ospitalità religiose, e tante volte possono essere un'alternativa interessante che offre una buona qualità a prezzi tutto sommato contenuti, spesso nei centri storici, mm-hmm. quindi anche in posizioni privilegiate. Allora, ho visto che hai segnalato sul tuo libro a pagina 200 anche situazioni di ospitalità presso bed and breakfast gratis con il baratto. Mi ha incuriosito perché anche io li avevo scoperti, questi signori che organizzano la settimana del baratto. E sì. Qui come possiamo fare una vacanza? Sì, questo è un modo curioso che con cui si possono convertire le proprie abilità. Magari uno sa dipingere oppure è in grado di tenere qualche lezione di inglese e le può convertire con una settimana di ospitalità. È un po' una versione modificata della banca del tempo, che è un altro interessante strumento di risparmio, no? Che sono queste associazioni di persone che si scambiano ore di competenze, di disponibilità, così magari io ti do un'ora di lezione di inglese a te e tu vieni a casa mia e mi cucini una cena per gli ospiti. Che cos'è la fiera dell'inutilità che affronti nel capitolo 14? Sì, questo è un po'. Sto facendo un'interrogazione, finale. Mi rendo conto, lo obbligo a ricordarsi un capitolo e tutti gli altri. Ma io sono preparato. Allora, la fiera dell'inutilità, in realtà, noi finora abbiamo parlato di modi per farsi furbi e risparmiare, magari sfruttando la concorrenza, sfruttando le alternative, però tante volte non ci rendiamo conto. Io l'ho visto, per esempio, nell'abbigliamento. Non ci rendiamo conto che abbiamo veramente tante cose e tutto ciò che compriamo rischia di essere un doppione di quello che abbiamo già. Dico, io l'ho visto già nell'abbigliamento, io non vado pazzo per le spese di abbigliamento, ho veramente due paia di scarpe. L'essenziale, dici tu. Tutto l'essenziale, eppure mi accorgo che il mio guardaroba, insomma, trabocca di abiti che magari ho usato solo una volta o due. Quindi magari prima di comprare un prodotto che non è strettamente utile, magari anche per la pulizia della casa, in tutti i settori, insomma, chiediamoci veramente ci serve, perché ricordiamo sempre che dall'altra parte noi abbiamo un pool di esperti di marketing, di persuasione, di pubblicità che ha studiato il modo migliore per convincerci che quell'oggetto determinato, magari non così utile, in realtà è essenziale per la nostra vita. Tra l'altro tu hai toccato il tema dell'abbigliamento, ma vedo che nella lista dei prodotti che possono essere considerati qualche volta anche inutili hai messo ad esempio il profumatore per lavastoviglie, lo smacchiatore per il bucato, l'appretto, il brillantante per lavastoviglie. Ecco, io consiglio proprio con spirito, così con curiosità, di visitare il reparto di generi per la pulizia della casa di qualsiasi supermercato e si vede veramente, si ha un'idea di quale raffinatezza abbiano ormai raggiunto le strategie per farci comprare dei prodotti che veramente non ne sentiamo l'esigenza. E infatti Andrea, allora eri preparatissimo, perché naturalmente il libro lo hai scritto tu, dobbiamo ormai salutarci, io ti auguro buone vacanze. Qual è il capitolo del libro che tu hai scritto al quale sei più affezionato? A chi sono più affezionato? Ma potrebbe essere, sai, proprio questo capitolo finale. In realtà potrebbe essere questo, perché tante volte liberarci di un po' di oggetti inutili nella nostra casa non solo fa pulizia nei nostri bilanci, ma ci fa anche sentire un po' più liberi. Eh sì, è vero. È molto, psicologicamente parlando, molto liberatorio fare la pulizia degli armadi. A me capita spesso. Grazie ad Andrea Benedet per essere stato con noi, se devi ancora farle, e buone vacanze, Andrea. Grazie a voi e buone vacanze anche a voi. Ha scritto 333 euro in più al mese, tattiche pronte all'uso per risparmiare senza rinunciare. Anche questa puntata di Salvadanaio è terminata. Grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione. Buona giornata a tutti.